Sì, grazie a voi di essere intervenuti e grazie ad Andrea per aver fatto questa introduzione. Devo dire che è veramente raro trovare qualcuno che sappia spiegare in modo così lucido una situazione che, come avete visto, è terrificante per quanto riguarda la complessità dei confini e il valore, il peso che può avere una parola o una definizione rispetto ad un'altra. Una semplice precisazione, focalizzando l'attenzione sulla realtà di Cremisan. Partirei proprio, così come ha fatto Andrea, dalla realtà territoriale geografica. Si trova, ripeto, quanto già detto in modo esemplare, sotto la linea verde dell'armistizio del 49 e interno, inglobata dai confini stabiliti in modo unilaterale da Israele e riconosciuti da nessuno, della Grande Gerusalemme. Grande Gerusalemme che ingloba tutte le colonie che la circondano. Ghilo e Har-Ghilo in primis, quelle che sono i nostri terribili vicini di casa, e ingloba come effetto secondario, terribile effetto secondario, anche Cremisan. Una piccola precisazione: fortunatamente il muro nel tratto tra Ghilo ed Har-Ghilo, cioè quello che divide, andrà, speriamo di no, ma dovrebbe andare a separare Cremisan dal resto della Cisgiordania, non è ancora stato costruito. Quindi, grazie a Dio, posso uscire di casa da Bejalla e andarmi a recarmi al lavoro così come fanno tutti i miei operai, senza passare per un checkpoint, senza avere problemi di alcun genere, perché fino ad ora non si è avuto il coraggio, nella migliore delle ipotesi, nella peggiore non si sono avuti i soldi o le energie economiche per costruire questo tratto di muro. E quindi, fortunatamente, ripeto, l'accesso all'azienda è per me, per tutti i collaboratori palestinesi, libero. Ed è importante che resti tale, ci auguriamo resti sempre così. Mi focalizzerei adesso sul progetto Cremisan, cioè su Cremisan come progetto, per illustrarne brevemente gli aspetti così umanitari e sociali, che poi insomma sono abbastanza scontati. Un popolo che ha bisogno di tutto, si può facilmente capire quale potrebbe essere il nostro contributo. E poi soprattutto sugli aspetti enologici e viticoli, che penso interessino anche di più ad un pubblico che, se in fin dei conti, è venuto ad una manifestazione sul vino. Ecco, Cremisan innanzitutto è un toponimo, cioè un nome di un luogo, è una vallata che praticamente in qualche modo congiunge l'area di Betlemme all'area di Gerusalemme. È un toponimo, quindi Cremisan è anche un nome di un convento salesiano che si trova proprio nell'omonima vallata, ed è infine il nome dell'azienda in cui lavoro, un'azienda che è nata parecchio tempo prima che esistesse lo Stato di Israele e le problematiche che ne sono derivate, quindi nel 1885, fondata da un prete genovese, si chiamava Don Belloni, che con una lungimiranza